Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Mi ha mandato a faccia al muro, allora mio padre cercava di difendermi e allora mia madre ha mandato a faccia al muro anche mio papà. E lascia stare, piccolina, così. Vabbè. Mi guardava. Una cosa che si deve notare di mia moglie è la seguente. Per lei è sempre tutta una novità. Noi ormai, io sono toscano, ma forse si capisce. Allora, però è 50 anni che stiamo a Milano. Quante volte saremo entrati in Duomo? 100.000, no? Tutte le volte, oh, che chiesa splendida. Come è sempre la prima volta la mia volta. Questo è qualunque cosa. Guarda, veramente una cosa incredibile. Tanto quando poi cambia, diventa l'opposto, perché. Comunque, bisogna sempre tenerla occupata questa donna. Sì, ecco, perché siccome lei ha sempre fatto tanto in vita sua, no? Perché ha fatto tutti i mestieri di questo mondo, ha fatto la professoressa, ha fatto la preside, ha fatto addirittura il sindaco del paese dove si stava, sì. Si chiama Caselle Urani, è stata catranese. Poi per non parlare di mestieri ha fatto prima, insomma, no? È una donna che non riesce a star ferma. Quando sta ferma gli piglia malinconia. O peggio. E prendeva lì e se ne va andare a casa sua. Senza sapere esattamente dove sia andare. Sta a casa sua. La puntata di oggi ha per protagonista Maria Giuditta, una donna che si è sempre dedicata agli altri. È stata un'insegnante alle medie, poi è diventata una preside, ha fatto anche il sindaco. E chi l'ha conosciuta ricorda una donna combattiva, sempre al fianco di chi aveva bisogno di essere ascoltato. I suoi alunni ancora oggi vanno a trovarla. Una di loro, oggi che Maria Giuditta ha 79 anni, le fa da badante. Perché a questa donna hanno diagnosticato l'Alzheimer 9 anni fa e la malattia lentamente sta facendo il suo corso e i ricordi si confondono, la memoria scompare e le persone amate diventano visi estranei. Al fianco di questa donna meravigliosa ci sono il marito e le due figlie. La generosità la ritrovo anche in loro, che hanno deciso di aprire la porta di casa facendomi entrare nei loro ricordi e nella loro vita. E così scopro come hanno iniziato a capire che la madre aveva l'Alzheimer. In realtà è stata la mamma, secondo me, che lei ha fatto la risonanza. Io me lo ricordo, no, perché avevo ritirato la mamma. Io avevo ritirato la risonanza magnetica della mamma. No, l'hai ritirata, ma siamo andati a farla proprio per quello. Allora, no. Diciamo che. No, sì, perché la mamma diceva: io mi dimentico delle cose, io non sono capisco, più quella di prima. Lei diceva, leggo un giornale, perché mia mamma era una che ovviamente si informava e tutto. Anche per il lavoro che faceva, i contatti che aveva fatto, io leggo, arrivo fino in fondo e poi non mi ricordo più che cosa sto leggendo. E quindi è cominciata così, per un caso, quasi un caso, no? Perché io ho detto, vabbè, visto che il papà della mia amica, non so, ha fatto qualche esame per vedere come mai ci fossero questi problemi, proviamo a portarci la mamma. Per questo la mamma è stata, diciamo, diagnosticata molto all'inizio della malattia. In realtà, quando noi eravamo andati all'inizio, Marcone non aveva ancora fatto la diagnosi. Aveva detto sicuramente svilupperà l'Alzheimer, ma non possiamo dirlo ancora, perché si vedeva dalla risonanza questo deposito, questo glucosio che insomma non funziona. E lei aveva detto, però i test erano tutti perfetti, e lei aveva detto probabilmente la svilupperà. Non abbiamo la certezza, perché per avere la certezza bisognerebbe, ti ricordi, lo si sa solo aprendola e non si può fare. Probabilmente lo svilupperà, ma ancora, e la diagnosi è arrivata dopo un anno, non subito. E poi c'è la difficoltà di accettare la malattia e l'amore che non smette di farsi spazio anche a 80 anni. Insomma, è stata dura veramente, perché lei, insomma, non c'è più una via di mezzo, mia moglie. O mi ama, qualche volta mi sembra di essere fidanzatini di Pini, no? E qualche altra volta non mi riconosce e comincia a dire, ma cosa ci fai tu qui? Vattene a casa tua, quando è che ti levi da piedi? Sono crovato, e quindi è una cosa veramente brutta questa qua, e capita anche questo. Secondo me però gli ultimi tempi capita un po' meno, forse, non lo so perché. Perché storia sono stata un po' a casa. Ah, può darsi anche quello. No? Quando sei a casa tua è più tranquilla? Beh, allora, sicuramente quando c'è una figura femminile Lei è più tranquilla, anche se non mi riconosce o mi scambia per sua sorella, una lontana parente o qualsivoglia persona, però è una figura femminile, mette meno a disagio, no? Certe sere è difficile convincerla che lui è il marito e che quindi è giusto che dormano nello stesso letto, quindi ci vuole la mano del Signore per farla andare a dormire. Una sera sono stata qua e 2 ore a convincerla, e alle 2 finalmente si è decisa ad andare a letto. Organizzare ogni cosa, ma anche stimolare la madre con incontri e attività, è forse questo che rende la vita della signora Maria Giuditta migliore. Io vado la mattina, parto la mattina, vado a lavorare e torno normalmente verso le 7, 6 e mezza, 7. E niente, quindi parto che loro ancora dormono, tranne forse mio padre si sveglia prima, però la mia mamma dorme quando io vado via, e lascio normalmente tutto fatto perché appunto la cosa funziona così, no? Mia mamma e noi cerchiamo di dare la massima autonomia, lasciarle assolutamente la massima autonomia, darle la percezione di questo. Quindi normalmente la mattina quando vado via è già tutto già impostato per il pranzo, in modo tale che lei possa continuare una vita quasi normale, insomma. E poi la mattina dorme, insomma, si riposa abbastanza, e dopo nel pomeriggio, subito nel primo pomeriggio, arriva Maurizio e passano tutto il pomeriggio assieme, ecco, quindi con varie attività, ecco, questo è l'obiettivo, è mantenere il più possibile una buona qualità di vita, esattamente, cioè cercare di fare tutto quello che si faceva prima, chiaramente con le limitazioni. Però per esempio adesso no, ma andiamo a qualche concerto, oppure facciamo una bella pace al cinema. L'obiettivo è come fare per evitare che la persona non stia sempre seduta, che poi nel caso di mia madre è impossibile, e a guardare la televisione, perché questo è fonte di depressione, no? E poi soprattutto o di depressione o di rabbia, perché certe volte quando lei è inoperosa così, prende valigie e esce. Una volta l'abbiamo dovuta ripescare perché aveva preso il tram che c'è proprio qui davanti casa, e mio padre era verde come quella poltrona perché non sapeva dove andarla a cercare, era fuggita, perché... per cui uno spavento, perché poi in questi casi non riconosce proprio più nessuno, né me né mio papà né mia, cioè certe volte vuole andare via a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche della notte così. Per cui noi cosa abbiamo detto? Beh, se la strada è quella di farle fare la vita più normale possibile, in modo tale che possa continuare a sentirsi utile anche, no? A sentirsi valorizzata, allora bisogna cercare tutti i mezzi a disposizione. La storia di questa famiglia racconta tante altre storie. In Italia sono circa 8 milioni caregiver, persone che si prendono cura del proprio caro, spesso facendo i conti con un dolore collegato al sogno di qualcosa che non potrà essere così come si pensava, come spiega bene Valentina, la figlia minore di Maria Giuditta. Io invece ci sono dei momenti in cui mi è preso proprio, non lo sconforto, però mi è dispiaciuto. Per esempio, ogni tanto penso, io ho una bambina. Il desiderio di mia mamma è sempre stato quello di starle dietro, godersi un po' il fatto di farla nonna. E questa è una roba che a me dispiace tantissimo. Di tutta questa cosa, il fatto che fare la nonna nel modo classico non lo può fare, questo mi dispiace tanto. È la cosa che mi dispiace di più in assoluto. Quando le cose vanno bene, sono tranquilli, eccetera, eccetera, io la mia tensione non cessa mai, perché da un momento all'altro può cambiare da così a così, da un momento all'altro. È impressionante, sì, soprattutto. E poi quando è in buona è in buonissima, ma quando è in cattiva è in cattivissima, cioè è proprio è un non-off, non c'è una via di mezzo, è difficile averla via di mezzo. Eh? E tu cosa dici? Quando con le persone è sempre che... Che cosa? Non capivo. Non, di che cosa parlava? Si parla del fatto che tu, quando arrivano persone, cambi. Nel senso, ti piace stare insieme agli altri, ti è sempre piaciuto, sempre. Va bene, ecco, e ti piace anche adesso. E quindi quando arrivano persone, amiche di Maria Paola, eccetera, eccetera, sì, e si fa i pranzi insieme, tu cambi e sei e diventi una persona sorridente, una persona certo, che non c'è più. Bisogna farlo. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Faccio io, mamma? O vuoi fare tu? Sì, sì. Va bene, ti lascio. Li lascio? Sì, sì, lo faccio. Allora, va bene, allora io tolgo questa cosa di mezzo. Sì, cosa vuoi che faccia? Mi sistemi come fai di solito. Anche quella è una dura lotta, perché normalmente cerco di fare io, ecco, ma quando si impunta... Vabbè, la mamma. È la mamma, esatto. Certo. Ormai... Ecco. Almeno mangiamo sempre verso quest'ora, ecco, cioè sì, 7:30. Stasera dice il brodo. Fra poco, vero mamma? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo sì, fatto, mamma mia, poi enorme. Facciamo i finocchi e poi normalmente questo qui, sì, prosciutto, formaggio, la sera è così. Che cosa? Appunto, come dicevo, la mattina prima di andare via o dalla sera prima lascio le cose semplici che può continuare a gestire, tipo non so, due fette di carne con degli spinaci, del pesce, con dei ceci, insomma cose che sono facilmente preparabili, ecco, da lei, in modo tale che continua un po' la vita di sempre, che lei è sempre stata, cioè lei cucinava molto bene, vero mamma? Sì. Cucinavi molto bene. Da chi hai imparato a cucinare, mamma? Da chi hai imparato? No, da che ho imparato delle zie. Zie? Beh, sì. Non da tua nonna, mamma? Sì, da mia nonna, ma parte la mia nonna. La nonna, e quindi, vabbè, pazienza. Tu, via. Allora, scusate, mi fa piacere che faccia mia mamma. Mia mamma, anche per carattere, ha sempre amato la gente, quindi in qualche modo si sforza anche, no, quando siamo a tavola con tutti, a raccontare, anche se le fa più... È una cosa incredibile. Ma, ecco, davvero, no, mamma, sì, ci sono... Mia, giorno, la mamma è una persona proprio brava, brava, brava per tutti. Per tutti, e ancora mia madre, no, mia madre, sua madre, è sempre... Quando si parla della mamma non è chiaro per lei, sì, a chi mi sto riferendo, proprio perché in questo momento sono la sorella, ecco, sì, questo preciso istante. Sì, la mamma nostra, veramente, lei sa quello che deve fare, davvero, per ognuno, quattro sono le figlie, no? Quattro, io, tu e le altre due, no? Ecco, quindi voglio dire, sono tutte e due, tutte e quattro brave, brave. Adesso è abbastanza serena, però certe volte questa cosa qua, diciamo... È una cosa che tocca molto, no? Quando si rende conto e dice io sto perdendo la testa, non so più chi sono, no? Non so più. E è un dramma che deve in qualche modo vivere lei, perché nessuno glielo può togliere, no? E questo è l'unico punto, cioè noi cerchiamo, come dire, sempre di impegnarla, di far sì che sia bene, stia bene, come ci hanno insegnato appunto le colleghe di là, no? Il benessere è la parola chiave per questo genere di patologie. Però c'è un punto in cui chiaramente la persona si trova davanti al suo proprio dramma, no? E non si può toglierglielo, perché è il suo, come ognuno c'ha il proprio, no? Siamo nella casa di Maria Giuditta, una donna di 79 anni che ha sempre avuto un ruolo importante nella società, prima insegnante, poi preside, sindaco di una piccola cittadina dell'Odigiano. Qualche anno fa a Maria Giuditta è stato diagnosticato l'Alzheimer e, come avete sentito in questo audio, abbiamo colto l'istante in cui la figlia, Maria Paola, nella visione di Maria Giuditta, diventa la sorella. La vita di questa donna è piena di amore, di bellezza cercata e trovata grazie all'impegno costante del marito e delle due figlie, Maria Paola e Valentina, che sentiamo ora. In questo periodo non sto venendo tanto, nel senso che sono venuta oggi ed ero venuta settimana venerdì scorso, quindi è passata una settimana. Se no ci sono volte in cui vengo tutti i giorni, o vengono loro o vengo io. Tipo alle 6:15 devo andare a recuperare Rebecca all'oratorio perché ha il catechismo, allora vengo, prendo lei, la porto con me al catechismo, perché poi quello è l'orario anche un po' più difficile, dove magari se comincia a non riconoscere mio padre diventa una... è l'orario brutto, sì. E quindi la porto con me a prendere Rebecca e poi torniamo insieme con Rebecca, stiamo qua un po', oppure magari vengo così, oppure vengono loro, insomma dipende, però ogni giorno è diverso. Una storia fatta di ricordi, anche quando non si possono condividere con la persona amata, forse una delle cose più dolci e gentili che si possa ascoltare. Io facevo, diciamo, un mestiere non esiste più, nel senso facevo programmatore di... cioè esiste, ma esiste in un'altra maniera, programmatore di computer. Quando i computer erano quegli enormi dell'IBM, avete in mente la SNAM Progetti, società dell'ENI, e cioè un mestiere che non esiste più, perlomeno in quella quantità. Ci sono proprio gli specializzati e non esiste più il programmatore legato all'azienda, è sempre un programmatore che fa i programmi per tutti in generale, insomma, no? Noi viceversa facevamo i programmi di tipo tecnico scientifico proprio perché servivano alla SNAM Progetti, ecco, questo è stato il mio mestiere. Comunque è stata una bella vita adulta, sì, no? Insieme, sì, i figli, tutta la moglie. Il mio mestiere mi piaceva molto, no? Perché applicavo veramente, io sono laureato in fisica e applicavo proprio veramente quello che avevo studiato, no? Quindi mia moglie viceversa è laureata in filosofia, che non è molto filosofa mai stata, e che però insegnava, e anche lei piaceva il lavoro che faceva. Insomma. Ci siamo conosciuti, eravamo... Io sono toscano, esattamente non di Firenze, di Sesto Fiorentino. È venuta su con suo zio, Enrico, perché voleva studiare a Firenze. Lei voleva studiare a Firenze. Lo zio, che faceva il maestro elementare, ha detto, scusate, ai bambini, scusate, c'è qualcuno di voi che ha un parente che fa l'università? Mio cugino ha alzato la mano e ha detto, mio cugino fa l'università a Firenze. Dopodiché io me ne sono vista arrivare a casa, mio nonno c'era un negozio di tessuti, no? Me la sono vista arrivare a casa e da com'era, era piccoletta, però da com'era, Dio, perché era una tipa attivissima, no? Si capiva, si dava a fare tantissimo e dava subito l'impressione di una persona molto attiva, come sempre stata del resto. A sostenere questa famiglia, un mondo di progetti tenuti insieme dalla Fondazione Alzheimer, Francesca Rosio, psicologa della Federazione. Le famiglie spontaneamente ci contattano, entrano in contatto con l'associazione e dopo un colloquio conoscitivo noi cerchiamo di proporre loro quelli che sono i servizi che abbiamo a disposizione, che possono essere una consulenza, quindi la possibilità di confrontarsi, di ascoltarsi, di ricevere dei suggerimenti, delle indicazioni, ma in questo caso appunto avevamo pensato che potesse essere interessante per

Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.